ora a leggere di Giuseppe Valentini e a Roma ci siamo arrivati. 15 anni, camicia nera, nessuna medaglia sul petto, ma la veste anche tu, il tuo moschetto. Quel giorno a Roma o in galera, c'era la nebbia, pioveva, nel paese squallido e muto, ma nessuno se ne accorgeva, ma nell'ordine era venuto. C'era tutta la disperata, eppure nessuno cantava, qualcuno alla mamma pensava, qualcun altro all'automblinda. È una voglia di andare più forte, di correre ancora più in fretta, e forse la bicicletta si avvicinava alla morte. 15 anni, camicia nera, soldato in mezzo ai soldati. Quel giorno o a Roma o in galera. E a Roma ci siamo arrivati. Di Giuseppe Valentini.